e lungo la statale di Ferrara ho visto frutta fresca regalare le stesse pesche che nelle città a 500 lire fan pagare. Mangiate la frutta fa bene, le vitamine, i vostri bambini sani e robusti crescere fa. E lo Stato di Israele il pompelmo ci ha pompato, 10 lode hanno dato alla banana americana e la frutta italiana a marcire se ne sta. Mangiate la frutta fa bene, le vitamine, i vostri bambini sani e robusti crescere fa. E tu borghese con la Maserati che mangi quella frutta regalata, il contadino un anno l'ha sudata e le sue tasche sono rimaste vuote. Se oggi il contadino ti regala la frutta che i mafiosi fa arricchire, in miseria lui non vuol finire e la sua rabbia certo esploderà. Avanti contadini coi trattori, avanti con le ruspe, con le pale, di ogni pesca una bomba fare per distruggere i profittatori. Avanti operai consumatori, uniti nella lotta all'oppressor. Mangiate la frutta fa bene, le vitamine, i vostri bambini sani e robusti crescere fa. Mangiate la frutta fa bene, le vitamine, i vostri bambini sani e robusti crescere fa. Mangiate la frutta, mangiate la frutta, mangiate la frutta, mangiate la frutta.